dice tuo padre, mio figlio non è su quel giornale che parla di te. Cade il giornale, silenzio, e poi c'è la tua foto che parla di noi. Sui rossi mattoni del muro vedrà il sangue dei fiori, forse calmerà. Suo figlio è caduto dopo il volo, ma c'è chi ha capito e continuerà. Dimmi del sole, dimmi se c'è rabbia e calore, voce per me. Per il balcone c'è aria per te. Dimmi del sole, nel sole non c'è. Thank you.